Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Un tema forse demodé, ma che a me sta particolarmente a cuore, è quello della presenza nella società italiana della cultura liberale, in particolare di quella particolare sfumatura che è stato il liberalismo di sinistra, una tradizione importante presente nello stesso Partito Liberale e poi in molti altri movimenti esterni al Partito Liberale, come il Partito Radicale, che fu proprio fondato da fuoriusciti del PLI. Questa tradizione culturale, di tutto rispetto, ci viene adesso riproposta da uno studioso di questo filone, Paolo Bonetti, che è stato docente universitario, che pubblica Breve storia del liberalismo di sinistra da Gobetti a Bobbio. È pubblicato da Liberi Libri, 218 pagine, 16 euro. In questo filone ritroviamo molti nomi illustri, a partire da quelli che, pur non essendo sempre considerati o considerabili di sinistra, ispirarono intellettualmente molti di questi esponenti. I tre maestri dai quali parte Bonetti, infatti, sono Benedetto Croce, Luigi Einaudi e Gaetano Salvemini. Poi troviamo i rappresentanti dell'antifascismo liberale, oltre a Croce e Einaudi, naturalmente, Gobetti, Amendola e Rosselli, e altri maestri del dopoguerra, soprattutto Guido Calogero, che diede dignità culturale al socialismo liberale, e appunto Norberto Bobbio, passando dalle esperienze del mondo e del Partito d'Azione. Ma sentiamo l'autore. Buonasera Paolo Bonetti. Buonasera a voi. Paolo Bonetti, in questo libro sul liberalismo di sinistra lei parte da tre maestri, come li definisce lei stesso, Croce, Einaudi e Salvemini. Non tutti di questi naturalmente erano di sinistra, però... Sì, no, ma i tre che io metto all'inizio del mio libro, Croce, Einaudi e Salvemini, sono fuori dalla storia del liberalismo di sinistra. Sono tre grandi maestri, a mio parere, di liberalismo, di democrazia liberale, che valgono tanto per i liberali di sinistra quanto per i liberali di destra. Quindi sono, come dire, la premessa. Poi dopo con Gobetti comincia la storia del liberalismo di sinistra vero e proprio. Ecco, un liberalismo, quello di Gobetti, che lei definisce etico-pedagogico ed espressione di quello che è stato considerato una certa eresia all'interno del liberalismo. Ma Gobetti è un autore molto interessante, per certi aspetti anche contraddittorio, come già notava Norberto Bobbio, perché ad esempio Gobetti è un liberista rigorosissimo, e vede però nel Partito Comunista gramsciano, in particolare nella classe operaia torinese, di cui Gramsci è il leader, la possibilità di un rinnovamento del liberismo, ossia la classe operaia torinese dovrebbe essere in qualche modo l'erede dello spirito capitalistico, con la sua intransigenza etica, con il liberismo molto rigoroso, il rifiuto dell'assistenzialismo statale. Perché? Perché Gobetti giudica che invece i liberali italiani, quelli ufficiali, siano infetti di trasformismo, di opportunismo, che in Italia la borghesia è sempre vissuta all'ombra del protezionismo statale. Quindi è da una parte un liberale liberista molto intransigente e dall'altra c'è questa apertura nei confronti della de classe operaia, del progetto politico gramsciano, no? Ma vede la classe operaia come erede della tradizione liberale. Su questo naturalmente abbiamo molte cose da osservare, e probabilmente io credo se fosse vissuto le sue idee sarebbero cambiate in materia. Nel dopoguerra questo filone culturale ebbe molta fortuna dal punto di vista appunto culturale e intellettuale, però scarsi risultati elettorali. Come mai questa discrasia in Italia? Ma perché qui Gobetti aveva ragione. In Italia, diceva, non c'è stata la grande rivoluzione religiosa del protestantesimo che ha formato nei paesi del centro e nord Europa una mentalità di individualismo, però individualismo responsabile, non anarchico come spesso in Italia. E lo sviluppo economico e politico italiano è stato notevolmente ritardato rispetto agli altri paesi europei, e quindi la borghesia italiana è una borghesia vissuta in un rapporto patologico con lo Stato. Allora, quando è caduto il fascismo e i vecchi partiti liberali, gruppi liberali, di notabili, hanno dimostrato loro inadeguatezza di fronte al pericolo comunista, la piccola, media e grande borghesia italiana, la grande maggioranza degli italiani ha cercato rifugio nel Partito Cattolico, partito fra l'altro molto in sintonia con la mentalità degli italiani, perché partito no, sempre pronto all'assistenza, sempre pronto no, a come dire, capire tutte le esigenze dei vari ceti sociali, con i risultati che però poi abbiamo visto, perché a un certo punto questo modo di governare che tiene conto degli interessi di tutte le corporazioni si è rivelato distruttivo per la nostra economia e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. E quindi la debolezza non è stata del liberalismo di sinistra, ma è stata del liberalismo tout court. È stata del liberalismo, il quale fra l'altro, a mio parere, paga la grande sconfitta del 22, quando per fronteggiare il pericolo comunista si è gettato nelle mani del fascismo, sperando poi no, di riconquistare la propria egemonia. Anche grandi notabili liberali come gli stessi Croce Einaudi hanno nutrito per un po' di tempo questa speranza. Adesso i fascisti ci salvano dall'avanzata comunista, ma poi nel giro di poco tempo riprenderemo il conto della situazione. E non è stato così, e questo grave errore storico ha pesato, a mio parere, per sempre sulle sorti del liberalismo italiano, di destra e di sinistra. Ecco, nel suo libro lei considera con rispetto l'esperienza politica di Malagodi e di La Malfa, però molti dei liberali di sinistra erano fuori da entrambi i partiti che essi rappresentavano, stavano coi radicali. Allora, questa diaspora che cosa ha rappresentato? Questa è una domanda molto interessante, perché un difetto del liberalismo italiano del secondo dopoguerra è stato proprio quello di non essere stato capace di diventare un movimento di massa. Ci ha provato Malagodi, ha avuto un certo successo, ma poi ben presto no, la fiammata del 63 si è spenta. Ci hanno provato i repubblicani con La Malfa, in seguito con Spadolini, e anche lì è stato un successo effimero. Gli unici che in Italia hanno tentato no, di portare il liberalismo sul piano no, di una democrazia di massa che coinvolgesse anche ceti che in Italia non sono mai stati liberali, sono stati i radicali, i quali però hanno inciso soprattutto sul terreno dei diritti civili, per il resto anche per la loro organizzazione non molto particolare non si sono radicati nella società, e quindi l'Italia è stata per più di 50 anni governata da democristiani, socialisti, poi sono arrivati anche i comunisti, finché c'è stata la cosiddetta rivoluzione liberale di Berlusconi, che però è stata una rivoluzione puramente nominale, perché senza voler fare della polemica politica, in realtà tutte le riforme liberali promesse dal primo Berlusconi non si sono mai realizzate. E infatti lei conclude il suo libro con l'auspicio che venga ripresa il filone autenticamente democratico della tradizione liberale. Nel mercato politico italiano c'è la domanda per questo? Ma la domanda c'è e non c'è. La domanda c'è nel senso che molti italiani avvertono che non è possibile più governare con certi sistemi, no? Con il corporativismo, con la mancanza di rigore, l'incapacità di fare determinate scelte. Non c'è, perché poi quando si tratta concretamente di fare le riforme, ogni corporazione dice sì, va bene, però le riforme devono toccare gli altri, non nel mio giardino. Questa è la contraddizione della società italiana, che vuole le riforme ma non vuole pagare il prezzo inevitabile delle riforme. Grazie a Paolo Bonetti, autore di Breve storia del liberalismo di sinistra, da Gobetti a Bobbio. Buona Grazie serata. Grazie a voi. Uno dei maestri di Paolo Bonetti è stato Guido Calogero, del quale esce un'antologia curata da Guido Vitiello, sempre pubblicata da Liberi Libri, si intitola Quaderno laico, 206 pagine, 17 euro. L'antologia è ricavata dagli scritti nella rubrica che a Calogero era stata affidata dal Mondo, per l'appunto, un impegno che l'autore condusse dal 1960 fino alla chiusura del settimanale nel 1966. Nei suoi scritti emergono la curiosità, la profondità e l'originalità del pensiero di Calogero, che spesso, partendo da fatti di cronaca talora apparentemente banali, riesce a sviluppare dei ragionamenti ispirati a una visione laica della vita, che rende Calogero, scrive Vitiello, la buona approssimazione di un moderno Socrate. Dicevo che Paolo Bonetti è stato allievo di Guido Calogero. Bonetti è ancora qui con noi in studio e quindi gli chiedo un ricordo di Guido Calogero. Ma io sono stato allievo di Calogero in città di Roma, anche se poi i miei interessi erano soprattutto per la filosofia moderna e contemporanea. Lui insegnava filosofia antica. Era un uomo di grande spessore culturale e morale ed era anche un uomo molto spiritoso, un uomo pieno di eleganza, di arguzia. Il Quaderno laico, che è stato recentemente ripubblicato, andrebbe letto dai giovani, se non altro per imparare a scrivere un italiano chiaro ed elegante e imparare anche un certo anticonformismo, che non deve essere becero, no? Si può essere duramente anticonformisti senza per questo non fare della volgarità, come oggi spesso accade. Quindi è il ricordo di un uomo, anche questo, no? Diverso rispetto alla maggioranza degli intellettuali italiani, quelli sono sempre pronti a schierarsi da una parte o dall'altra. Calogero era un uomo libero, per questo non è mai stato popolare. Grazie di nuovo a Paolo Bonetti. Grazie a voi. Tra i maestri di liberalismo citati da Paolo Bonetti, molti credevano naturalmente nel mercato, in particolare in Audi, Gobetti, e allora può essere interessante a questo proposito ricordare un libro che affronta proprio il tema del rapporto tra libertà economica e democrazia, un tema molto attuale in considerazione di quello che sta succedendo in molti paesi, a partire dalla Cina, che scoprono la libertà economica ma certo non diventano più democratici. Allora vi segnalo questo libro, Economia di mercato e democrazia, un rapporto controverso, curato da Raffaele De Mucci per Rubettino. 284 pagine, 16 euro. Qui troviamo una serie di saggi, alcuni sono anche in inglese, per approfondire appunto il tema del rapporto che esiste tra mercato e democrazia. L'esempio cinese è forse l'esempio più clamoroso, contrariamente a tutte le attese. Infatti, almeno fino adesso, l'avvento e il successo dell'economia di mercato in Cina non ha portato a un rafforzamento dei meccanismi democratici e a un allentamento dei vincoli autoritari. Il libro in realtà manifesta quindi alcune riserve su quella che era la teoria classica secondo la quale il mercato favorirebbe l'avvento della democrazia. Dice il curatore, lo sviluppo economico di per sé si è dimostrato non è causa dell'instaurazione e o mantenimento del regime democratico. Insomma, aggiunge, se è vero che la democrazia è inconcepibile senza il mercato, non è sempre vero il contrario, posto che si danno casi storici in cui capitalismo e sviluppo economico esistono al di fuori della cornice democratica. Lo dimostrano gli esempi degli Emirati Arabi, del Cile degli anni Ottanta, delle cosiddette tigri asiatiche negli anni Novanta e più di recente dell'India e appunto della Cina. Ma lo sviluppo economico, si nota nell'introduzione, non è soltanto causa di miglioramento collettivo, ci sono anche momenti di grande crisi, di grande tensione, come aveva osservato diversi anni fa il grande studioso americano David Bell. E qui si spiega in questo libro quali sono le ragioni che si rifanno al fallimento di questo nesso fra il mercato e lo sviluppo della democrazia, e ci si rifà in particolare alle teorie dello storico Arnold Toynbee. L'analisi è condotta secondo sei ipotesi. Da un lato si parte dall'ipotesi che il mercato favorisca la transizione verso il regime democratico, dall'altro si considerano le possibili combinazioni opposte, quelle cioè di un mercato che sia in qualche modo ostativo, scrive il curatore, fondatore della democrazia, della democratizzazione in qualche senso. Troviamo vari studiosi che intervengono su queste materie, non soltanto italiani, come dicevo prima, i quali affrontano il tema e ci aiutano a qualche riflessione controcorrente. La conclusione, per esempio, è che l'introduzione e l'affermazione dell'economia di mercato in sistemi non democratici possono risultare in effetti dei fattori facilitanti dei processi di democratizzazione e che non si dovrebbe perciò parlare del cosiddetto capitalismo selvaggio, come ricorda Raffaele De Mucci al termine della sua presentazione, perché il vero capitalismo selvaggio, scrive, è quello promosso dalla politica totalitaria. Un'altra sfumatura del liberalismo è il liberalismo conservatore di Giuseppe Renzi, che è una singolare figura di studioso, era un grande filosofo vissuto tra il 1871 e il 1941, che era stato da giovane socialista, anzi era stato costretto all'esilio in Svizzera, dove era diventato il primo deputato socialista nel Parlamento del Canton Ticino. Poi per un breve periodo si era avvicinato al fascismo, poi diventò acerrimo oppositore del regime, tanto da essere anche imprigionato e privato della cattedra che aveva l'Università di Genova. Di Renzi esce un libretto che si intitola Principi di politica impopolare, pubblicato dalla Vita Felice, 260 pagine, 14,50 €. Perché impopolare? Perché molte delle tesi di Renzi sono decisamente anticonformiste e furono scritte queste tesi nel periodo del cosiddetto biennio rosso, intorno al 1920, quando le tensioni sociali raggiunsero il culmine e favorirono naturalmente l'avvento del fascismo. E questa politica impopolare, questi principi, affrontano temi che sembrano dei temi tabù, per esempio quello del voto alle donne, su cui Renzi è assolutamente contrario. A un certo punto Renzi se la prende anche con la libertà di stampa. Insomma, Renzi non nasconde di essere un vero conservatore, ma, come nota Paolo Beltramini nell'introduzione, in questo suo conservatorismo manifesta un'autentica carica rivoluzionaria all'insegna del politicamente scorretto, almeno così diremmo noi oggi. E allora c'è molto di attuale in questo pensiero, che spesso assume dei toni decisamente reazionario. Perché? Beh, perché molte delle critiche di Renzi vanno a segno. Per esempio, nessuno può negare che la democrazia sia, come diceva Churchill, il sistema meno imperfetto che esista. Però nessuno può dare torto a Renzi, nota Beltramin, quando egli notava che certo la democrazia non favorisce l'accesso al potere dei migliori, e anche sulla libertà di stampa le osservazioni sono molto pertinenti e riconducono tra l'altro a molte tematiche molto attuali. Insomma, Renzi è davvero un campione dell'anticonformismo e della libertà, che non a caso sottoscrisse nel 1925 il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi parlo adesso di tre romanzi italiani, tutti e tre insoliti e interessanti. Il primo è di una giornalista del Sole 24 Ore, il giornale imparentato con questa radio, si chiama Cristina Battocletti. Il libro si intitola La mantella del diavolo, Bompiani, 170 pagine, 17 €. Questo è un noir insolito perché i morti non mancano, ma l'esito del libro lascia un che di irrisolto, di non perfettamente chiarito. Ma Battocletti non vuole scrivere un giallo, ma piuttosto un ritratto, per la verità assai efficace, di un ambiente chiuso e ristretto che l'autrice conosce bene, perché la stessa è friulana, e qui ci parla di una delle perle del Friuli, cioè Cividale. La protagonista del libro torna a casa per il funerale di un amico e sarà respinta nel tentativo di ripartire da altre morti misteriose che coinvolgono alcuni rappresentanti della buona società di Cividale, delle figure eccentriche temerarie nel loro impegno a proclamare la verità, magari in versi, o il gruppo di amici del padre ancora smarrito dopo la morte della moglie. E dunque ne esce un ritratto pietoso ma implacabile dell'ambiente friulano. E la Battocletti scrive anzi nella postfazione che il Friuli rappresenta il suo Heimat, e sentiamo come l'autrice in queste righe vive il legame con la regione che l'ha spinta appunto a scrivere questo libro. La friulanità non è solo una connotazione geografica, ma un modo di essere, di pensare, di agire, che marchia profondamente nel bene e nel male, nella dignità, nel pudore, nell'attaccamento al lavoro, nell'onestà, nella tenacia, nella generosità dei gesti più che delle parole, come nella testardaggine eccessiva, in certa ottusità, nella difficoltà ad abbandonarsi alla libertà di essere e non solo di dover essere, o alla leggerezza che può essere fucina dei pensieri più alti, nel senso di persecuzione, di inferiorità da sottani verso i sorestans, quelli che stanno sopra, ovvero il resto del mondo, e superiorità per la propria insularità, nella chiusura, nella diffidenza al nuovo, nell'indipendentismo becero. Era per me necessario che la culla di questa narrazione, nata da osservazioni, immaginazioni, pensieri anche surreali, per lo più germogliati fuori dal Friuli e davanti agli schermi dei cinema e sui libri, fosse quel posto che continuo a chiamare casa, anche se da più di 2 decenni non vi abito più. Un altro noir, questo ambientato molto più a sud, in Puglia, è Non sono un assassino, di Francesco Caringella, Newton Compton, 282 pagine, 9,90 euro. Questo è un libro che appartiene a un filone particolare o a un sottofilone particolare dei noir, cioè quello dei libri scritti da magistrati o poliziotti. L'autore, infatti, è un consigliere di Stato che è stato in passato militare, commissario di polizia e magistrato. E un magistrato e un poliziotto sono i protagonisti. Il primo è la vittima, il secondo è colui che viene sospettato e imputato dell'omicidio. Il delitto è tanto più inspiegabile in quanto i due sono o erano amicissimi e la carriera del poliziotto era stata dovuta in larga misura proprio alla spinta al magistrato per farlo emergere, per farlo lavorare bene. Ma il protagonista vero di questo libro più di tutto è il processo, e anzi direi che il libro si può identificare nel genere del legal thriller. Ci fa capire infatti che non occorre mai fissarsi alle apparenze nel processo, perché la verità può assumere molte facce. Il processo, scrive Caringella, non è una macchina precisa e affidabile capace di produrre un risultato per definizione giusto. È nel processo che l'imputato deve appunto affrontare, il protagonista gioca il tutto e per tutto. E allora abbiamo le parti ben definite, un pubblico ministero che è apparentemente fanatico, un giudice vero, come lo definisce il protagonista, un imputato che proclama la sua innocenza anche contro prove schiaccianti. E sentiamo come il protagonista interpreti appunto il processo. Con l'esperienza sul campo avevo verificato che tutti i protagonisti del processo mentono. Mente anche chi non ne avrebbe ragione. Mentono persino l'imputato innocente, il testimone in buona fede, la persona offesa non corrosa dal rancore. Nell'assistere a deposizioni false che contraddicevano i fatti accertati nel corso delle indagini, avevo compreso che tutti gli attori di quella particolarissima commedia mentono perché desiderano essere creduti e pensano che la menzogna sia più seducente della verità. Mentono perché la verità non sembra mai vera, perché la verità deve essere mescolata con un po' di menzogna per risultare verosimile, perché la verità deve essere esagerata per risultare credibile, perché ci sono poche ragioni per dire la verità, mentre ce ne sono di infinite per raccontare una bugia, perché ogni uomo ha troppe cose di cui vergognarsi, perché a ognuno piace raccontare quello che l'ascoltatore desidera sentire. Anche la vicenda giudiziaria, che dopo poche ore avrebbe conosciuto la parola fine, mi aveva insegnato che il processo, come la vita, è una rete arbitraria di artifici e menzogne, un pantano putrido dal quale il giudice deve venire fuori andando a caccia della verità meno bugiarda. Il processo si concluderà, ma le sorprese non finiscono qui. I colpi di scena finale a ripetizione infatti valorizzano anche la componente psicologica del libro, giocata molto sulla esigenza del protagonista di ricostruire un rapporto con la propria figlia. Qui apro una parentesi per parlare di un altro libro scritto da un magistrato, Mario Conte, che racconta un'avventura allucinante nel libro E se fossi tu l'imputato? Storia di un magistrato in attesa di giustizia, pubblicato da Guerini Associati, 141 pagine, 15,50 euro. Nel 2003 il magistrato, allora uno stimato pubblico ministero, si trova imputato di un reato particolarmente infamante, cioè di aver commerciato droga, perché un pentito lo ha accusato. Il processo si trascinerà per molti anni, durante i quali il magistrato dovrà anche affrontare un tumore, e solo dopo 9 anni arriverà l'assoluzione piena, confermata poi recentemente in corte d'appello. E qui Conte ci racconta il suo calvario, con molte interessanti osservazioni sul funzionamento del sistema penale, le sue lentezze, la fiducia spesso ingiustificata nei cosiddetti pentiti. Insomma, conclude l'autore, il sistema giuridico italiano ha perso dei precisi punti di riferimento, e aggiunge che questa osservazione non è dettata dal risentimento, ma anzi dalla constatazione, da tecnico, del mancato rispetto della cultura della prova e più in generale delle regole processuali e deontologiche da parte degli inquirenti. Continuo a tenere aperta questa parentesi con un altro giallo barese di Gabriella Genisi, che ha creato il personaggio del commissario Lo Bosco, una brillante indagatrice che qui ha le prese con un delitto che colpisce un mondo che a lei è molto caro, quello dell'alta cucina, un cui rappresentante, un grande chef, viene trovato morto. Il libro si intitola Spaghetti all'assassina, Sonzogno, 190 pagine, 12 euro, ed è una storia che comincia dalle padelle, per citare le prime righe del libro, e ci apre dei punti di osservazione molto particolari sul mondo dell'alta cucina e su Bari, dove si svolge la vicenda, che ci appare come una città amante della buona tavola, ma anche capace di assumere toni insospettabilmente cupi. Un altro giallo, questo di ambientazione scacchistico, è quello di Paolo Fiorelli, scrittore, appassionato di cinema e appunto di scacchi. Si intitola Pessima mossa, Maestro Petrosi, Spelling e Kufer, 312 pagine, 17 euro. Qui siamo nelle Marche, dove una partita a scacchi diventa il prologo di una tragedia, delle indagini del giocatore superstite che in 35 mosse verrà a capo dell'intrigo. Roby Juanke Roby ci introduce adesso al terzo libro, che non è un noir e non è nemmeno un vero e proprio romanzo, è semmai un intreccio di vari generi: l'autobiografia, la documentazione giornalistica, la narrazione. Il libro è di Vanni Santoni, si intitola Muro di casse, pubblicato dalla Terza, 144 pagine, 14 euro, e il soggetto di questo libro è l'esperienza dei concerti rave, di cui spesso parliamo soltanto per luoghi comuni, concerti che ci vengono presentati dall'interno con gli occhi di un giovane che li ha frequentati per anni. Per la verità non si dovrebbe neanche parlare di concerti rave, perché questo termine, ci spiega il libro, si riferisce solo a quel fenomeno che ebbe luogo in Gran Bretagna fra il 1986 e il 1993, piuttosto si deve parlare di free techno o di technival, che è stata un'avanguardia musicale e sociale molto estesa, ramificata e significativa. E nel libro il racconto scorre attraverso le parole di tre protagonisti: Jacopo, che dà voce ai sensi, Cleo, che dà voce all'intellettuale, all'intelletto, e Viridiana, che rappresenta lo spirito, e tutti e tre ci manifestano le differenze di sensibilità ed esperienze relative a questo fenomeno, di cui Cleo, l'intellettuale, così ci spiega le origini. All'inizio c'era molta teoria, c'era anche molta diversità, erano azioni, interventi. Solo massificandosi è diventata una subcultura. Il movimento rave differiva dalle subculture giovanili precedenti proprio nell'essere non mappabile, dinamico, frastagliato, a vari gradi di radicalità, senza confini tracciabili tra partecipazione e appartenenza. Poteva attirare in mezzo chiunque, alle feste vedevi la gente più diversa, e per questo era così potente quando girava, e cresceva, devastante nel suo essere gratis, nel suo essere fuori dai tempi del divertimento, 3, 4, 7 giorni di baccanale, inaccettabile. Eppure la città poteva solo schierare sbirri o ambulanze, secondo attitudini e momento, e stare a guardare. Ma era una punteggiatura invincibile solo finché restava molteplice e dinamica, e continuava a occupare e liberare spazi e poi sparire e riapparire altrove. E infatti le esperienze stanziali, quando non si limitavano a fare da snodo, sono andate tutte più o meno storte. Basta pensare all'Area 51 a Segrate, alla FinTech a Roma. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di noir, allora una collana per ragazzi di PM, Il castello della paura, di cui sono usciti vari titoli: La notte della vendetta di Fabrizio Sileggi, Rotondo del terrore di Alessandro Gatti, La mano di Tu, Luke di Guido Sgardoli, Un gioco pericoloso di Anna Vivarelli, illustrati tutti da Edwin Remre, fanno tutti sulle 90 pagine e costano 8,50 euro. I titoli sono eloquenti per promettere qualche brivido in un castello diroccato che si rivelerà teatro di avventure inquietanti. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.